di sì, però si tratta di regolazioni là. Aspetta che rimetto l'altra, che devo fare un'altra, devo dare un altro cc di gas. Guarda così si è aumentata. Hola, attenzione Gianni, dopo rummo. Ma uno che mettiamo doppio, non dopo. Dopo rummo no, doppio rummo. No, è diminuito. Allora, è diminuito. E così? Sempre uguale. Sempre uguale. Allora, vediamo un po'. Scusa, Don Bessa, saluttoni. perché stavo facendo una prova con Gianni. Già, questo è l'altro microfono. Buonasera. Siamo. Ma Sì, stasera mi ha chiamato. Hai chiamato io, non ci sono problemi. Per vedere un po' se ci riesce a metterlo in contatto con quell'altra persona che conosci. Sì, Roger, non c'è problema, non c'è problema. Vedo un po', fra, quindi se domani mattina sono andato al medico io, ma stamattinata già mi avvicino, adesso ci prendiamo un caffè e facciamo due chiacchiere. Che molto probabilmente ci mettiamo d'accordo e dopo le 7 o anche dopo le 8 quando chiudi ci facciamo un salto che le porto una cosa che voglio far vedere, dai. Al di fuori da quello che stiamo preparando e facendo. Poi sicuramente mercoledì arriverà l'altra radio, quella in WhatsApp, così vieni a vederla secondo se ti va bene, insomma, se va bene quel discorso. Ciao. Ok, niente, va bene così. Già le prendi. E più abbastanza, ecco. Magari, lo senti, chi è già? È piombo. Ma io non preso il piombo, ma io non preso. Gappa gappa. Allora se non c'era già ci vediamo. Noi facciamo due chiacchiere. Faccio dire alcune cosette interessanti. Abbiamo mai capito il volo, ho capito che hai preso subito la palla al basso. Ok, magari ma cosa senti? Si può fare anche con i piedini bianchi in legno. che basta prendere il legno normale, credo, come l'ho preso io, il, quello quadrato da, da 8, come quelli che hai visto qua, si taglia una misura da 20, 4 piedi e poi si lascia un bianco. L'uomo vuole l'accatto bianco e il piano si prende già l'accatto bianco. Però c'è un bel lavoro, c'è bisogno di andare a, a chiedere di nessuno, già, cosa devo fare? Un farmaco va tutto io, no? Praticamente i piedini sono come quello che c'ha, che ho preso a Franco, però grandi, adesso quelli sono lunghi, da un metro, ci sono fino a un metro, da 20 cm fino a un metro ci sono, quindi non c'è problema. Prendi esattamente tu la misura della radio, lunghezza per larghezza, capito? Profondità, tutto, la mia misura, poi dove vuoi più il piano, e mi dai il piano che c'hai tu di appoggio, quanto hai di piano di appoggio. Non lo comprendo, non lo vedo. Che era Luca, che fosse Luca, però Adesso mi stanno venendo i dubbi che non è lui. Ma che Luca, Luca arriva a Sant'Egosto, lo ritrovo. Questa è la ragione di dubbi, ma che dubbi usci dall'altro giorno. Ma io sì, perché? Oh, vabbè, da parte mia io lo ignoro, voi, vedete voi. Beh, cambiamo canale, dai, lasciamolo perdere. No, facciamo cambiare canale, ma dimmi che non lo rispondo, ma chi c'è? Tanto è il bello QRM, quindi non è che mi invisi più di tanto. Adesso cambiamo canale lasciando BD, no, rimaniamo sul 10. Cambiamo canale nel senso di ignorarlo. Ah, sì, per me è già fatto, vabbè. Comunque non è le voci, e lasciamo parte della Sassari, e sta piazzando, ho capito chi è, il segnale è quello. A parte proprio quello di Luca che era 7 con il polo, lui stavo guardando bene, è un po' più basso, vabbè. Dalle parti di Antonio, là, di Antonio Vigello. Ti ho capito io. Vabbè. Comunque qua c'è la bella titola, lo stesso bello quando da poco. G R E tutto assieme. già mi hai capito. Quel controllo. Ma vabbè, non stiamo parlando di preservativi. Ecco, io volevo essere educato tu subito, boh. Ma c'è un cazzo, io ce l'ho. Se schiaccio contro non me lo va. Che devo fare? Alto schiaccia. Alto shift, provale. Ne alto ne shift. Siamo sicuri che quel tasto riguarda la tastiera. La vanguarda. Ah, qui c'è Alt GR, vediamo. Alt GR. Alt GR. Esce qua. Dove decidi di dollari? No, prova Alt GR E. A volte c'è troppo. Dovrebbe farlo. C'è un OCP lì. Sì, ma io c'ho due dita, eh. GR è un unico tasto. E questo è cosa c'entra? La lettera E nella tastiera tradizionale italiana corrisponde, forse tu non ce l'hai disegnata, però puoi farlo anche con quel tasto e con la E normale. End Messaggio 1980, John Lewis, il signor Gagino di Gignano. Gaffa, gaffa, andava. Andava, andava. Oh, via, via. Che dire, che dire, boh. Non ho parole, non ho parole. Cava, cava. Già, vedi tu, non ho parole. Vedo, vedo, vedo e sento. Qua la chiocciolina l'abbiamo trovata, ora siamo a posto, Gianni. Oh, auto! Ehi, ehi, era Alt, GR, e poi, ma dove sei, c'era il tasto incantato, cosa ne gioco? E dove è la cartiera? Perché non puoi scherzare tu? Ne vedi poco di come l'accusava gli antichi. Ah, io non sono farmato, dice, se la sua cittadina a volte dice, se mi si capisce che la soda. Aiuto. No, è che non ti sono venuto, lui si dice che l'avete toccato. Se la gira dalla sua bianco, lui si dice la veniera che fa un mappo. Vabbè, la ragione tu allora, è una ticchia. La ragione tu, va bene. No, tu la tratti la ragione, va. No, no, cazzo, questo è che sono io. Io non mi dico che mi sta attento. Ah, va, vai, vai, quel ricco, ma va, o Sara, direttamente. Ma perché, però che mi fai nel piatto, poi ci sarà che tu... Aspetti, ma sono affari che riguardano a te e a nessuno. Ma vai, ma io faccio. Ah, vai, faccia tutta quella bella, non si girata ancora. Vai, vai, aiuto, sa, io non la sento più. Lascia quello che fai, perché se ti piace la vita quando si mette il pistolo, vai, continua, va. Ma l'aspetto, lo sono io, No, mi sono più grande di te e va, lascia aspetto lì, va. Lasciami stare che sei una virata così, va. Ma non hai mai tutto un taburo? Appunto, la metti lì a chi ti mette il fondo, buon mare. Rispondimi male, adesso vino che appunto ha mai visto, rispondimi male. Vabbè, non ti interessa niente, male lui. La tua opinione è stata molto chiara, non è Gigi, va bene così, scusa se ti ho disturbato da quel ricco, riprendi già. Servi cantare, non capisco questo, non è che stanno rompendo, che non stanno rompendo le scatole, sai che non può volarci, io non la colpa non c'ha niente. Ho detto io per primo, che mi sembra visto, cioè ho detto sicuramente Luca come il povero questo qua. No, perché qua il segnale che è stato qua, il segnale mio, non si fa mai quello di te, che è la Luigi. Per quello che io mi sono incazzata, che sono stata detto, no, non si può dire niente di nuovo, a chi dice quel fa e quel cacco e non sta pensando a parlare da vaccino, non si fa mettere me la canto anche lì allora. Ma pure se sono io, fatti affari due, no, scusa, pure se sono io, tu subito a fare nome, Luca qua, Luca là, ma fregatene, ma lui, fregatene, vai l'ascolto, stati zitta, fatti affari due. Vabbè, ah, magari ne state facendo un dramma, non è successo niente. Ho detto, mi sembra la voce di Luigi, perché a volte Luigi questi scherzi li fa parlando con Luca. Quindi mi sono permesso di dire così, non si è ammazzato a nessuno. Se ti vede una polemica, ma non ragazzi. Ah, abbiamo detto male stasera, Cazzo di aro, adesso mi sono fatto le palle anche io, Se siete l'ascolto, va bene, rimanete l'ascolto e basta, è finito. Non mi vede una polemica, sennò qua... Tutti dice una cosa, ma voi pensano che siamo grandi ricerche di tutti gli altri in fare. Vabbè, Luca, ok. Accettiamo Luca che si metta a fare scherzi, non ci sono problemi. Non è successo niente. Parliamo con tutto il mondo. Gigi è coricato, quello sta ascoltando, a me non mi interessa. Ho detto così perché segnale è quello. Se io vedo un segnale dico che è quello lì. Non è quello lì, scusa se ho sbagliato, punto e basta. Riprendi, Robert. Fate da bravi, dai, cambiamo argomento, così non siamo tutta la sera come stasera stiamo parlando di queste cose. Continuiamo il discorso di com'è la Alt GR Chiocciolina, dai, passiamo partiti da lì, adesso abbiamo terminato lì, si continua da lì, dai. Mamma, io sto scrivendo, ciao a tutti, ciao. Buonanotte. Ma se stiamo cambiando con questo, se vuoi siamo riusciti a capire Claudio che c'è la tastiera bloccata, così è? Sì, l'ho bloccata, vabbè, ma non è quello il problema. E che non so, un po' meno. Tutti gli altri vadiano l'orgoglio. Non si può di più nulla di Ferrari, tutti gli altri è cotta nel quello vanno a riferire. E chi malone. Vabbè, non è successo niente comunque. Bisogna stare molto attenti sempre. Perché siamo a Martelli, che sono per sbagliare uno, qui subito nasce una polemica. Riprendi Luca. Luca, vabbè. Qua stai combinando, qua. Di nuovo qualcosa stai guardando. Compro, vendo, vendo. No, ma ne ho comprato 4, non mai se basta, mi sono rotto le palle. Non c'è problema, adesso lunedì mi deve fare una radio per. Cioè lunedì, mercoledì, perché ha scritto ieri. No, sabato mattina ha scritto, quindi mercoledì arrivo. Una radio VHS però base, stazione base che mi serve per fare. Per fare attività da un'altra parte, capisci? Niente. Poi basta, sono bloccato sempre a quelle radio che ho preso. Oggi mi è arrivato un messaggio a me l'altro giorno, infatti volevo rispondere a questo, e mi dice io mi sono aggiudicato un 3+3, ma io l'offerta che ho fatto, poi sono andato a vedere, mi avevano superato, quindi come faccio ad avermelo aggiudicato? Dicendoti che dovevi aggiudicare con i miei libri che un feedback negativo a quello che ha fatto la migliore offerta e non ha accettato il proprietario. Sentito, ciao Volturio, adesso non ti sentivo. con più si stanno perdendo. Comunque ben sentito, alle prossime, ciao ciao. Sono già stati pubblicati, io li ho letti, però non cambia niente quel discorso. Di controllo velocità che trasmettono dialogo con satellite e riescono a annientarla, a disturbarla, gli mandano una portante sopra, quando ci passi vicino non fanno trasmettere il segnale al satellite. C'è uno schema per farlo, però in Italia non serve a niente. Io ce l'ho le mappe delle autovelox. Sì, ma li cambiano poi. No, assolutamente no, i punti sono sempre quelli, non possono cambiarli per legge. Sì, ma che punti, allora ce ne sono lanciatori elettronici come sono tutti, cioè i marini, se sono 31, si mettono a San Giovanni, prima di San Giovanni, dove hanno vestito quei poveracci. La motorizzazione, più o meno lì si sono messi qualche volta. La motorizzazione? No, io parlo sopra, io parlo in direzione in linea d'aria, non la motorizzazione, parlo della 131. E se ti castagnano te la paghi la multa, allora sono pagata io e andiamo in Milano, figurati. Io lo so, però che si vede, non si viene fatta scelta che dice a me, fino a questo posto. No, lì io lo so, l'ho beccata, dove c'è la Sama, sotto lì erano nascosti, dove c'è un negozio col supermercato sotto di un po' più avanti. La Sama era appena provando, erano amici miei, mi conoscevano pure. Conoscevano la macchina mia, infatti mi hanno detto purtroppo non ti possiamo fare niente perché c'è la fotografia. Non c'è più niente da fare, quando vedrai te la bici. No, ci devono essere delle questioni proprio particolari per toglierla, se no te la baghi. Yeah. Il comandante Giovanni in casi particolari, però non è come prima che conoscevi il comandante o eccetera eccetera, te la toglievo, adesso non si può più. C'è prima di scegliere in un corso a Roma, tu hai scavato già la seguita, non c'è una fotografia. Cos'è il discorso? Ti ha detto la fotografia, sono numerate le fotografie, o dicono che la fotografia è uscita male, però la devono rovinare, dire che si è intrecciata nel macchinario, ma chi è che rischia per una cosa del genere? Sì, comunque è successo, c'è che mettere la cava, la macchina alle stampe, di tutto, c'è quello che si mette il disco per abbagliare. Non funziona, la soffilata in giro, anche quelle sono prese in giro, non è vero, adesso ci sono le telecamere anche infrarossi, non faccio proprio nulla. Non me lo credo sia qui. cugina dalla parte della madre. Noi siamo cugini di primo grado con Marcello Buonanima, da parte di mio padre, però Mari è la cugina dalla parte della madre, loro non mi sono niente a me. Quando tu non conosci la strada, quello lì non conosceva la strada, come mio cugino si è fidato della strada di te. dire, però quel pezzettino di strada è studiato male, non è concepibile costruire una cosa del genere. E quando è successo l'incidente, sia a mio cugino che a quello lì, tutte queste cose che ci sono adesso, le barriere rumorose, le cose stroboscopiche, tutto illuminato come illuminato, non c'erano. E per cui uno, anche camminando a 80 all'ora, 90 all'ora, rischiava di lì. Lo so, non c'erano perché era in fase di ancora lì, stavano terminando, però non si cammina così. Lì c'è un limite di velocità, amico mio. Io sono molto schietto su queste cose. Se te lo vuoi provocare l'incidente te lo provochi e ti ammatti alla giura. Però se lì lui trova l'altra macchina che scende, che poi si mette per la carica, lì sono dolori perché non uno no. Lì minimo aveva fatto la strage. Perché l'Audi, la riservata laterale dove c'era un mio carissimo amico che abita tra l'altro qua, che è vice comandante, che abita nel mio palazzo, hanno riservato la velocità in ingresso a 160 all'ora, ma stiamo scherzando. Appagata, quello però si è salvato, anche se è tutto disintegrato, c'è ancora il polso, mi dice che è mezzo suonato, ha avuto colpi alla testa, è paralizzato. Quello che sta dicendo tu di entrare a Manettone, io ho visto questi militari, sei presente i cavalcavia, quello che esce da via Budapest e poi ti rimette nella 131, questi ragazzi davanti a me si sbattono frontalmente a questi due vecchietti con una sinistra amica, loro ne sono entrati a Manettone e hanno levato l'altra corsia e l'hanno imbigliato in pieno, l'hanno levato male. Io ti posso dire che non si cammina così in quel punto, sia l'uscita che l'ingresso, lì c'è uno svincolo. Io la mattina quando vado al volo, che faccio quella, come esco dall'incrocio di Alitalia, mi metto subito a sinistra perché devo entrare nella camionabile. Non posso stare fino all'ultimo momento a girare, ma mi viene un'altra macchina che giustamente sta camminando dalla sua parte, io sto rivalendo la corsia, ma il biglietto è pieno. Quindi c'è, chiaramente adesso è visibile tutto, le corsie e tutto, però se uno deve camminare a quella velocità, classe pilliccia, lascia perdere. Tuo cugino lì ha sbagliato di brutto e va bene, però l'altro poteva fare qualcosa di più grosso, capito? Ma di molto più grosso, a chi si è dato un moto che è nella sua strada tranquilla e serena, arrivi in sciodrivido, cioè solo perché c'è un Audi A8, non era un Audi A6, era un Audi A8, capito? Una macchina a 100 milioni, tu ti permetti di fare garage, di fare quello che vuoi, non hai usci. E infatti si è ammazzato alla giura, non si è ammazzato, ma come ti dice molto, che è un motore di garaggio. Vai Gianni. Posteriore, cioè, lo strumento si può migliorare fino a 3 kW tanto piccolo fino a 60 watt, WF, sono separate le elettroni e sugar. Ignora male ogni bestione. Ma se mai ci mancano garanzi già, fare un coso. Questo è quello che mi ha mandato l'apparato base WF. per il coso, per il 940. Per il 515, lo sai qual è il 515, ciao Gianni, ciao a chiunque è in ascolto, è quello colore argento, oro, quel colore strano che ha fatto la Kenzo, ma è roba dell'anno 3, cosa non fa, non serve a niente, non ha niente a che fare con le cose che servono a te, quello lì, è quello che quello poteva servire a Vannino, è la linea che c'era a Vannino, mi sembra ricordo, tanti anni fa. Che c'era Vannino? A Vannino, la linea che volevo venduta io, ma era la linea del C80. Tu non so che altre linee ci aveva avuto. No, questo è una chiamata del 3, mi ha ferito una bella radio. Una bella radio, mi ha ferita ieri, arriverà mercoledì, un base VHF, non c'è il ponte del Petitore, non devo rispettare niente, ma non ha. Ok, facciamo girare, vai Gianni. Vannino ce l'ha per la sigla, no, non c'entra niente con 680, mi pare che gliel'avesse venduta Danilo, mi pare che infatti era di Danilo e poi Danilo l'ha data lui, ma sarà roba di 4-5 anni fa almeno, e credo che non funzionasse neanche tanto bene, e poi l'ha data Alfredo mi pare, se non ricordo male. Niente a che fare, per il 940 ci vuole o l'SM220, 220 mi pare che si chiama, visto che 230 è quello che ho io, oppure la T230 se vuoi fare linea, capito? No, la T230 ce l'ho, non l'avevo preso da quello tuo, l'avevo preso da Massimiliano, cioè la T230 con l'esterna e una cassa voce 220. Prima o poi glielo pizzico, sto battendo tutto a tappeto, no? Sono andato anche sul sito Racchino dove se c'era qualcuno che prendeva qualcosa, invece niente. Va bene, Mario, no Roberto, che fini? Mi sono rientrato, ben sentito Marco, ripeti tu Gianni, dai, parlate voi, ascolto un attimino. Mario. Il top one è grande quanto 920, è favoloso, promesso. Digel Top One? Sì, il BB. Bravo, bravo, India, Golf, ecco, Alfa Romeo. BGR è scritto, Digel Top One. Tipe 1. Chi è la marca? La BGR, questo che... La casa produttrice? Sì. Mai sentito. Ma è la fotografia, tu l'hai vista? C'è scritto, c'è la fotografia e tutto. Prende un vicetrasmettitore americano, un VHF BGR Top One in condizioni perfette e perfettamente pulsanti. L'apparecchio lavora da 144 a 146 MHz in FM, SSB e CW. La potenza d'uscita è 100 W e completo di noise blanker e vox. Alimentazione 220, 220 V AC. In dotazione cavo d'alimentazione, microfono originale da palmo e in balli con schema e manuale di istruzioni. Si dice che il direttore è veramente in ottime condizioni estetiche e perfettamente funzionante. Viene venduto così come sta, senza alcuna forma di garanzia. Io l'ho già sentito al telefono qua, tu immagini il 920, mi ha detto, perché ha detto, ma è molto grande, guarda quanto è una testa di quelli baci. Ho detto, ma dalla fotografia si assomiglia molto al 920, ma ho detto, guarda, tu metti il 920 in più la colonna esterna, infatti c'ha questo, vediamo sulla foto, c'ha proprio sulla destra, l'autoparlante come, cosa ti posso dire, come il Gianni, per capirci, come l'Inuit, il 294, così. Ed è, il colore è verde, il com. guardate che computer a casa ce lo passi. Sto sbagliando, 10.000 euro mi ha regalato mia socia, 2.000 euro socio. Spendaccione, spendaccione. Se tu vai a vedere, qui c'è lo smile, scusi, però è HF, dove siamo? Eccolo qua, Sommercamp FR50B, che è il ricevitore della IAESU, e poi c'è l'altro, il Sommercamp Digital FRX, che è praticamente il 101, quello che c'ho io. Sono gemelli comunque, c'è a pagina 8, c'è il ricevitore e il trasmettitore. Cose che non vogliamo, che è tutto, che interessano a noi. operatore, perché ha fatto tutto lui, capito? Dove c'è tutto scritto, manuale d'uso eccetera eccetera, però non riesco a leggerlo perché ci vuole un software particolare. No, manuale d'uso, ho trovato un sacco di siti dove ci sono i manuali ma sono tutti a pagamento, gratuito niente, ho trovato un sacco di siti dove ci sono una marea di apparati da poter vedere, però gratis no, e sto cercando anch'io qualcosa per il test, per vedere le pedinature della connessione microfonica, perché volevo caricare se c'era il circuito stampato, la circuitazione, ma non ho trovato ancora niente. Ci vuole pazienza. Guarda, comunque se per caso trovi anche tu frugando qualche sito, per me mi interessa per il test, per così trovo le connessioni per mettere il Tarnac più 3 o l'MDQ 5. Come, su che apparato mi ha detto? Lafayette Texas. Kappa, se capita lo cerco. Questo che ho trovato io, ci sono centinaia e centinaia di apparati, però ci vuole un software per leggerlo, adesso lo chiede a un amico che si occupa del computer se c'era lui. E cioè che cosa ti chiede per me? No, dico, ti fa la domanda se c'è questo software, non mi ricordo che cosa è, io non l'ho mai sentito. Si dice se ti appare la luce verde vuol dire che è compatibile, se no, no. Io a me non mi appare questo affare verde, per cui non ce l'ho questo software. No, così, stravagante, che si trova in rete, lì, un altro sito dove c'è il mistero, sai tu, vediamo se si riesce a caricarlo. 736. Oh, 736 era mo 2-1, ottime condizioni, 7 giorni, 400 euro. Vado a controllare. Vai, controlla Claudio, vai. Occhio di falco. Avrei sempre controllando, facendo. Comunque guardatelo sempre, è un bel 680, 680, compro, vendo, 680. Guarda, trovano un 430 e se lo mette sulla testa, 680, e questo è il 736, Marco, è quello V1 della IAS, bello, nuovissimo, cavolo, canto 940 e mano, 400 euro. Com'è 400 euro? Il 736, quello della IAESMO. Aia, IAESMO FT 736 R, al mod VHF, VHF, ottime condizioni, sono per avere tutto il baravano, è perfetto. Solo mancano 7 giorni, l'altro no. Dicezione, questa è la sezione di 10 giorni, scade il 5 marzo, alle 23.11, 23.11, alle 11.11, del 23 marzo, comunque non ho detto nel preferito, lo tengo sott'occhio questo signorino. E quello lì vedrai che sale oltre il limite, o più di lì, perché è quello che si può montare anche la scheda dei 1200, io ho usato anche quell'apparato lì, come è un bel apparato, è un bel servitore. VUHF con la scheda dei 50 MHz o dei 1200. Ma io no, vedere qua, ma tu sai per curiosità, già mi serve, ho chiesto 2000, ho già fatto l'armata Brancaleone delle V e delle U. Sto cercando l'FT1000 io, o 950, qualcosa simile. C'ho un amico io che ce l'ha. Fatto che stamattina, no, ma dai, anche se non lo uso mi serve, e dai, io mi rinato voi, fino in direi di fesserì. Ma quello c'è quello Fiat da 100 watt. Ma chi? Quell'amico lì. No, hai capito chi è, il 950, ciao. Pensavo stai parlando di quello che c'è il Fiat, delle 7000 Fiat. Quello lì, ma quello è molto duro. Ma chiamalo leccando piano piano. Chiamalo ecco piano piano, vedrai che molla. Avevi detto. Adesso non te l'ho detto, ma non c'era niente. Tanto guarda, tu immaginati che ho speso per il 101 sono 300 euro, 300 euro, 2 c'è per qua, sono 8, 8, 16, sono 460. L'altro c'ho un marchiamo per altri 250 euro, ma ho preso un marchio di soldi, quindi cioè alla fin fine e lui va a avere così giusto per trascorrere un'oretta di navigazione, non compro niente, metto i soldi da parte, ma lo faccio mandare da Alfredo che se ne ha fotti. Ah sì, è con tutte quelle cose lì che è anche affuriato. Niente, non c'è niente, in casino ho perso, perso un sacco di materiale, c'è tutto sì che è crollato al fiere Norvegro, sì. Sì, ma non mi dire che è crollata la parte vecchia della luna. Ma che? Dalla sua, dalla parte avevano già iniziato a montare tutto, c'erano già roba calcolata, roba imballata, roba... un casino. Ma vai, non sapevo, cioè sapevo che era crollata, ma che non c'erano stati i danni o problemi alla gente. Accidenti, gli ha fatto molto danno? E pare che abbia perso roba, che comunque è sotto sequestro il capannone, quindi... Tu immagini anticiperà che dai niente dreck, per carità di Dio. Non era giornata da nessuna parte, ce l'ho messo le nebbe sopra il tetto. L'occhio. Ma tu le senti in radio, un po' di attività, c'è gente che compra, che vende, sembra che un po' di movimento, mi pare che ci sia, lo so male. Già c'è, però sai, con i prezzi e con questo cacchio lì lo stanno girando, radio, sì, a livello molto basso. Io mi sto comprando tutti i giorni, sono sempre lì attaccato, di e notte. Non ho rispettato neanche che aveva, il primo contratto che mi hanno fatto che aveva il 4 marzo e l'ho dovuto rinnovare in anticipo, l'ho fatto venerdì, perché avevo praticamente un'ora e 70 minuti di traffico su 60 ore, no 30 ore, adesso praticamente ne ho 60, ho aumentato, sono sempre lì, attaccato, vedo, faccio, manopola, gira, vai, non mi interessa, vendo mutande e calze, la notte. Ma la versione 1 perché dovrei staccare la terra da questo e staccarla a quello. No, non lascia perdere allora, io pensavo che avessi appoggiato di mano. Sono indeciso se tenermelo così riscoltere, ecco, vamo dici ma guardi il pure del cervello. Se vengo così non ritiro neanche niente, giro direttamente sui B e con poco c'è altra cosa. Va bene, va bene. Cioè io per il tempo te lo faccio vedere io qua davanti a vicini e te lo faccio vedere qua sui preferiti ce l'ho, è favoloso. Problema, no, apparati per trasmettere dappertutto, c'è la DX qua in 27, non l'hai visto cosa c'è? Ha fatto, avrà fatto 250 capre qua in Madre Cittadina, è una stazione DX, la grande. Attenzione, Boga Maria, Boga Maria, Alghero, se ci sei, Sassari ti chiama. Per mettere 27 ci vuole anche la prova 27, non ce ne vuole Boga Maria, dopo a 16 ti viaggio la 27. Il prova di controllo ce ne vuole, tutti gli altri c'è nessuno. Ma lo sì, aspetta che gli dico, forse non si ricorda bene il canile, aspetta. No, ma lo senti, se non lo sento io non sto parlando qua. Ma magari si è infettato da qualche parte. Claro, io ho quella sim, la connessione internet la uso per stare ore e ore collegato al cluster, capito? Mica uso il cluster in pocket io, sono su internet sul cluster, capito? E per quello che mi serviva ore e ore. Con quest'altra me lo sciucchiate subito. Che contratto è quello lì, Marco? No, per sapere le facce tue. No, io non ce ne sono segreti. È un contratto Omnitel, una carta, una SIM qualsiasi ricaricabile, e in più ho chiesto la connessione GPRS con il contratto 20 euro flat al mese. Ma ce l'ho già da appena fu concessa questa cosa. Sono, vicino a Padromazzella e comunque sei vicino, là. Così mi avvicino al centro Vodafone e chiedo. Allora, Marco, Boga Maria, fatti sentire questo 10-2027, questo bidone del radio vecchiaia. Vai in banda laterale, vai in USB. Dove? Qua, wow, perché paura hai? Sei già ne qua. No, io rimango qua in M. Perché già non è a USB? No, ma ho un problema sulla radio. Rimango qua, Marco, vai tranquillo. No, era per avere più città, capito? Aspetta, che forse arriva. Riprendi già. Io voglio sentire qua, sul canale 10 Alghero, che a me mi arriva una volta più 30 Alghero. Fammi sentire il binomio del radio che c'hai. Ma va bene che si venga per la M, no? Allora va bene. Ho provato una volta, mi sono mettendo a piangere, per carità. All'aria KF, poi accendo un digitale, non è... lavora molto molto bene in banda laterale. Banda laterale è in FM, in AM fa degli edai. Manco... no, io non ho mai provato neanche anche HF, figurati, perché no, non mi interessa tutto. Io ce l'ho solo in V, in U, in HF c'ho altro radio. In 27 c'ho questa, che non ce n'è per nessuno, ma proprio per nessuno. Sono il numero uno, lavora bene, ma da laterale, tutto, fa tutto il qua, tutto quello che vuoi, per iniziare va benissimo, puoi fare tante cose con questa qua, però c'ha questa bestiolina in AM, non ce n'è, ho trovato 450, 850, sono delle sono tratte, rispetto a 440 ci rimane adulti così. Non ce n'è, è detto da me, non ce n'è. Radio come questa in 27, no? Non la tira fuori nessuno. Marco ci si ammatta. Bisognerebbe appensarsi, già, anche il 450 sarà comunque. pensarci, ma è stato pensato di espansori, di amplificazione, di equalizzazione, di 440, 140, ci attacchi MC60, MC80, MC85 e vanno già, senza bisogno di aspettare a perdere tanto tempo. Con gli altri bisogna battagliare. Vediamo un attimino se Marco è riuscito a mettere in moto l'antenna. Marco Alghero, ci sei? Metti, attaccato a quel traliccio, metti una manto qua per fare due chiacchiere, esatto, sei direttive. No, c'è 90, va bene, c'è 90, c'è 80, 440, 140, 450 non va bene, ma se ne lascia perdere. 450, 450, tutte quella serie digitale non vanno bene. Non vanno bene, io parlo di microfoni MC60, 80, 85, poi microfoni, equalizzazioni, balle varie, quelle io non ho molto tempo da stare lì a equalizzare, io ci attacco un microfono e per me non c'è, testato, fatto il controllato, non venne, fatto il 40 con l'MC60, neanche con l'85, 60 così come ho fatto io questa modifica, non ce n'è. Zio Carlo, questo adesso spinge 200 watt in AM, cambiati i finali, invece i finali a MOSFET, non ce n'è, mi è costato, ma almeno sono sicuro che il viaggio era grande, cambiato la ventola dietro, messo più grande, fatto un lavoro ad hoc, Zio Carlo ha colpito ancora. Facciamo un attimino di bianco che Marco dice che è riuscito a accordare l'antenna, vediamo se riesce ad arrivare a casa. Vai Marco! Parametri, già capito, non è che tu che mi chiedi qui e là, lì ci sono dei parametri da cambiare per lì cambiando parametri, stringendo, facendo, quello è un computer. E allora c'è proprio deluso solo in VHS, in VHS non me la futti nulla. In mezzo questo che è facile ma sincero, questo adesso la voce combatte, non ce n'è. Va bene, cambiato finali, cambiato tutto. Abbiamo fatto un lavoro grande. Ma per l'impressione che sia un po' deluso con l'apparato, no? No, ma io l'ho preso con uno schermo ben preciso, avere le VU su due display separati, capito? Posso ascoltare in una, ricevere l'altra, trasmettere una, ricevere l'altra. Ne faccio uso così, ho degli apparati, ma non sa niente se c'ha 5 bande che vanno a tutte le parti, ma non funziona già. Io quello ce l'ho due nuove a 100 watt, lo uso così, capito? Quello mi 60, ma non so manco che cosa c'abbia, funziona niente, non mi frega niente. Io sono fatto così. Ho l'ombre 40, 80 metri, ho il 4,40 27, poi 40 metri e 20 metri uso il 920, tutte le antenne separate, ogni radio c'è la sua antenna, cosa me la fa. È così, no? Ma non mi piace avere una radio, stare lì, cambia, che ti cambia, io devo avere una radio per ogni banda, capito? 10.000 l'ho dedicato io, ti giuro, non l'ho mai usato una HF, mai. Non so manco come funziona, figurati. Conosco tutti i parametri, le cose da regolare, ma non mi frega niente, uso solo il VHF e il VHF. Comunque, vabbè, lì bisogna cioè il bici, c'è qualcosa. C'è un 4,30, un 250 euro, non c'è neanche un'offerta. Continua, non becca metrico, 0,30 e c'ha un bel noise bracket, c'ha un bel trasmettitore molto più selettivo del 140, non ha l'accordatore, però me ne frega niente, la situazione non è a mai, ho già una puttana accordatore. Ma io, grazie a Dio, in questa frequenza niente stazionario, è zero. Bella MT60, poi non è comprata, sei come il 140, capito, le stesse regolazioni, mitigain e carrier, è come il 440, a potenziometro così esterno, bello, il 140 va vicino, gli dice comprata, si c'è, poi mi stai attento, piano piano, il dito, lì invece, è molto più riuscito il 430. Il 430 è nato prima del 440, però ti dico che l'ho avuto, ottime soddisfazioni, erogato tutta la potenza che ha un bel controllo dell'LC, con l'MC60 funziona molto bene. E cosa costa in moneta? Ma ne ho visto uno poc'anzi, c'è un B, non c'è neanche un'offerta, 250 euro l'hanno messo. Se questo non fanno manco un'offerta, non l'ho messo sui preferiti. Se non fanno manco un'offerta che rimane intorno a quel prezzo, si può anche comprare, non c'è problema. Anche se arriva a 300 si può comprare, meglio di un 140, molto, molto meglio. Claudio, Controllate se c'è affetto di zero. No, non ce n'è già, infatti sono andato a controllare quello. Non c'è neanche un'offerta, ma dovrebbe averlo messo stamattina, perché c'è la data di oggi. Quanto c'è? 3 giorni. No. Oh, Claudio. Oh. Se puoi fare qualcosa non c'è problema, capito? Io ho perfettamente compreso, non ti preoccupare, non ho messo sui preferiti per quello, Mario. Te lo tengo l'occhio questo, te lo tengo l'occhio io, ma che non facciano qualche offerta di brutto e ci salga lì picco. Per il momento non lo so se preferite, lo voglio seguire perché non è una radio molto interessante a quel prezzo. Non c'è prezzo leggero, non c'è niente. Per il momento, tutta la giornata, non c'è manco un'offerta, l'ho messo stamattina alle 8:30. Sino adesso non c'è manco un'offerta, quindi adesso domani me lo controllo di nuovo, vediamo se ci sono offerte. Lo tengo sott'occhio Mario, è una bellissima radio, è simile al 440, le manca la tastiera, il resto del funzionamento è uguale al 440, capito? Non ha la tastiera praticamente per digitare i numeri sul VFO normale, però c'è tutto, c'è l'SB, l'SB, CWM, FM, FSK come il 440, poi c'è il processore, lo sblanker, regolabile, c'è tutto, AGC, tutto, RIT, VFA, VFOB, lo split, sì, A uguale B, tutto, c'è l'attenuatore, e basta, non ha la scheda fonema, non c'è niente, pronto, non frega nulla. E poi c'è il pulsantino dove ti controlla il power. Va bene, bella radio, bella. Va bella. Se me lo dici tu che si può pigliare, va bene. Guarda, te lo dico perché l'ho avuta prima del 4,40. La prima radio che ho preso è il GX2, capito? Il GX2 l'ho preso, era appena fitto. Poi non mi piaceva la modulazione, per me anche ieri c'era una modulazione che non ha niente a che fare con quella che voglio io. Aveva uscito questo 430 della Chemo, dove mi sono preso quello, l'ho tenuto per un bel po'. E poi iniziamo insomma a girare, ecco, con il 430 ho preso il 140, poi il 80, poi il 450, ho provato tutto Mario. E poi mi sono fermato col 440 perché mi sono accorto che il tocco della radio che piace a me. Capito? Però ecco una bella radio, quella è una bella radio, qualità prezzo meglio del 140, due volte meglio. Se non si fanno gioco vaglio, come si dice a Sassari, per il momento non c'è mai un'offerta, quindi la seguiamo, la teniamo d'occhio. Se poi fanno qualcosa di diverso, pazienza. Terremo sempre sotto occhio tutto, Mario. Però detto che prima o poi il capo te la pizzi con la radio, come dico io, però come dico io, non come dicono loro. Sì, ma fai un'offerta, così non la vedono che si interessa, te la mettiamo. Sopra qua nella L mi metto la radio che arriva e così. oggi la usiamo anche quella LIN VHF, e magari c'è la volta buona che il TS2000 lo facciamo andare in HF, adesso vediamo, non lo so già, ma io ne ho talmente tante che a volte non sai manco quella che devi usare più. Infatti, non è necessario avere quella radio, ma comunque se non ti piace, comunque stai contagiando a tutti, eh. Una droga, ce l'hai tu, si droga tutto e fai drogare anche agli altri. Bene, vai, ma è contagiato tu il mondo della DB, già lui. Sì, ma comprovendo, se contagiando tutti. No, per compro, via comprare. Gappa, quando c'hai un bel mobile, e poi, vabbè, adesso sto pensando a procurare la roba da poterlo riempire. Perché prima c'avevo la stufa smontata, fatta i ripiani, ed era troppo piena, non ci stava più niente. Adesso c'ho questo mobile che diciamo che non è neanche a metà. Poi sotto, quando c'ho tutto, metto l'alimentatore da una parte, il digetto dall'altro, e in mezzo ci metto una bella radio. Poi c'è il piano di sopra da riempire, il primo piano è già pieno perché ci ho messo, c'è l'Argus, poi c'è l'FT, poi ci sono altri due baracchinetti piccolini. Ciao, Gappa. Se vengo lì mi prendo le misure per faccio un mobile, e ho già fatto qua già nel avviso tutti quelli che non vedo, non è certamente rifinito alla grande, però è fatto bene, è fatto bene tutti quelli che vengono, cioè, falegname che te l'ha fatto questo l'ho fatto io, non falegname, attenzione, nessun falegname, tutto io fatto perfettamente ordinato, passano tutti i cavi, non si vede niente, ci sono solo i tre piani delle radio, belle sistemate e tutto, non c'è proprio niente. Adesso domani mattina sono a casa, faccio la prova qua con la stampante, se sotto ci sta la stampante, ci metto la stampante e ciccia, tanto la casa viene fuori da davanti. Porto su questo amplificatore della ciò, non faccio niente, momentaneamente non serve, e non me la frutti lunga lì, ci mettiamo la nuova radio, così ho anche la L impegnata, vuol vedere che il microfono si può attaccare, dovrebbe essere a 6 punte, dovrebbe essere, così mi pare aver capito, e a 6 punte facciamo la connessione e ciccio. Noi vediamo quello lì, gappa gappa, oh, ma adesso vediamo, no? Tutto un po' già, ehi, oramai te l'ho detto, un paio di giorni ero già tranquillo e sereno, se c'è qualche passaggio che faccio con più lentezza, ma seguire le radio, mi so giudicare tutto, non c'è problema, ma l'altro giorno provavo il tattino per... L'altro giorno oggi ho trovato il tastino sulla tastiera per mandare le mail a questo signore, ma li ho trovato piano piano, ho visto che l'ho trovato. K, robe di K. Quindi caro Gianni, cos'è a voi? Sei duro, morbo, non io. No, io andavo a guardare, ma tu comprate. Vicenda, mai detto, vieni qua ti faccio vedere, c'è un bel radio qui, per a casa sua, ma accende questa cosa, hai che vedere già, sembra cattino mi è B, ah lì tu è B, fammi vedere, rullava con questo mouse, più, questo radio, fermo, fai quella, fermo, ha detto, boh, compro, me ne ha fatto comprare una alla fine del mondo, là. Un Royce molto bello, che poi Sì, però è molto bella quella parte, molto molto bella. E da lì mi è giunto il fatto che c'è stato attaccato a Franco, fra il computer, lo procuro il computer, fino a quando mi ha telefonato un giorno, mi ha detto, beh, ma vabbè, io sono la macchia da tua, ma abbiamo beccato le scatolette. Ah, hai preso questa cosa? Computer, non avevi computer, io togli tutto via, tutta la mondezza. Mi ha collegato tutto, lui, fatto solo lui, un bel giga, 2 giga, e ti dico che sono andata grande veramente, di luscio, ma almeno sono contento, tranquillo. Abbiamo attivato tutto, non c'era niente prima, avevo un computer di quelli a piazzetta che... No, io non è di quelli a piazzetta, di quelli che sta marcato, però va bene, 1800 giga è... già va bene, non è tra i più grossi, però va benissimo, abbastanza veloce e via. Poi le radio che ce le ho, non mi mancano, e niente, fra un po' ne avremo una in più, così poi niente, va tutto alla grande. No, altri apparati poi non mi interessano a me, perché con questi due già posso trattarli come ricevitore e già vanno alla grande. No, Mario, non ho capito, non è che l'ho comprato in piazzetta, proprio da piazzetta, da tizio da battaglia. Era un, figurati, un, cos'era, un Pentium 400, già, per carità, lento, mentre la gioca, quelli vecchi proprio. L'avevo preso seconda mano da un amico, 250 euro, fatto il dono. Questo è costato un bel po' di soldi, però non mi frega niente. Siamo riusciti con Franco a fare delle cose fatte bene. Non sono contento perché poi tra l'altro ha fatto tutto lui, l'ha seguito lui, ha installato tutto lui. E qualsiasi cosa c'è, Franco è sempre molto molto disponibile, perciò tecnicamente il suo lavoro e non ci mette più le mani nessuno, è inutile stare lì a cianfugliare e a creare problemi. Ha fatto tutto lui, ha anche attivato la GPRS e tutto quanto. Va bene, va bene. Quanto mi sembra già? Ti stavo chiedendo se quello che ho cognato l'avevo ripristinato. Ciao Massimiliano, praticamente stava facendo un lavoro per il bucket, capito? Perché questo non lo uso solo per fare internet, che è grosso, internet e a PRS, questa c'ha due schede. Questo è convinto, c'ha due schede. A due schede macchine, capito? Mentre quell'altro lo uso solo per fare il packet, quindi metto l'altro monitor a sinistra, l'altra unità sotto, la tastiera va sulla sotto l'altra, la L, capito? C'ho già lo scorrevole pronto, altro devo piazzare, me ne dimentico sempre, e quindi dal centrale ho la tastiera per internet, così mi giro di lato con la sedia e ho la tastiera per il packet. No, viene. È venuto un bel lavoro qua, no? Tutto ad hoc, già, tutto ad hoc. Caffalà, meglio così. Sì, ma qua mia moglie, se non lo faccio nello stesso colore della stata, non mi rimane il monito, capito? No, si può fare tranquillamente, io non ho voluto che poi il giorno che mi stufo, ma ce lo vediamo. Se non mi stufo, ne tolgo tutte le radio, rimonto tutti i pannelli, tutti i piani e mi rifaccio la cara ai bianchi, capito? Ma non è come l'ho fatto io, solo così, se ne fotte. L'ho lasciato così color legno, l'ho lasciato anche domani mattina. Mi rivelicio il piano perché i pomilli degli MC60 mi stanno facendo tutti i segni neri. Domani mi rivelicio il piano, tolgo tutti i microfoni e mi rivelicio il piano. Piano, i pierini, tutto da una rifrescatina. Capito? E così è più, sempre più ordinato. E poi le metto i filtrini di gomma a questi cacchi di di MC60 perché c'hanno da fare in gomma sotto e la siamo tutti femminili. Li pulisco il carteggio una mattina, il piano, avevo una passatina lì, di quel trasparente là, mordente, come si chiama tu. Come mai io l'alimentatore non è un mesettile, già mi l'ha visto. L'alimentatore c'è un pisciotto, c'è uno sportellino, non si vede neanche l'unità del computer, non si vede niente. Poi è fatto tutto là. Ah, però che c'era, scusa, così vedi come mi sono organizzato e vediamo anche qualcosa, se c'è sul computer, queste cose così, capito? Tutto lì. Vai, vai. No, io ho questo qui che è molto bellino, bellino da vedersi, però giustamente c'è già nessuno, vuole tutto quanto ripreso, fatto bene, fatto verniciare sempre nel colore della porta, perché io ho anche il tavolo che è uguale, capito? E niente, ho fatto una ristrutturata, una bella rinfrescata. Fatto qualche accorgimento perché io sì, ho messo le mensole, però non ho fatto i buchi per fare passare i cavi di alimentazione, non ho fatto i buchi per fare passare il cavo per poter collegargli l'antenna, però quello lì, l'importante è che riesco a fare una cosettina bellina, perché poi l'intenzione mia è di cambiare anche questi sportelli, cioè anziché in legno farli di vetro, in modo che rimangano protetti sia dalla polvere che da tutto, capito? Rimangono puliti. No, vabbè, io buchi non ho fatto, io mi sono tenuto attaccato al muro col piano di lavoro, il campo che passi le PL, i cavi e basta, quindi li faccio tutti passare da dietro, ma così anche dalla sulla L li faccio passare da dietro, buchi non ne ho fatto io. Niente buchi, anche i ripiani sono praticamente staccati dal muro in modo che i cavi scorrano bene, non si diano fattini uno con l'altro. Il ripiano è da 2 metri, il piano di lavoro è da 2 metri, mentre le mensole che salgono sono praticamente da 1,80, quindi ho lasciato 20 cm da una parte e 20 cm dall'altra, perché da una parte ci sono tutti gli attacchi delle prese e tutto quanto, altrimenti non riesce a lavorare tutto. Poi ho fatto il sistema di impianto luci da poco, e quindi c'è i faretini proprio puntati sull'erario, è venuta una cosa ordinata, non diciamo bella, ordinata, una cosa ordinata e va bene, si può, insomma, puoi lavorare tranquillamente, ecco. Ho trovato un angolino, ma questo danno fastidio a nessuno, un angolino proprio che era dietro la porta, falegname, Andrea mi ha girato il telaio alla porta perché apriva l'interno, adesso apre l'esterno, quindi no, non mi crea problemi, non mi crea niente, capito? Tutto lì. No, ma quello che vuole fare Gianni, se mi attento viene un bel lavoro. Se lui si decide che lo vuole fare, non dice che lo faccio, non c'è problema, mi dà le misure, facciamo bene un bel lavoro. È un bel lavoro, anche più bel fatto perché l'accato bianco e il legno qui non deve lavorare, non deve fare niente, capito già. E ma i bordi rimangono scoperti? Cosa? I bordi che pagano rimangono senza la laccatura? No, c'è già la, quando fai il taglio c'è la città mercato, vendono anche nel reparto di falegnameria l'elettricista, la catena dei viveri, quindi tu le fai la cattura, come fa falegname, non io lo guadagnavo, lo vado direttamente, anche falegname sono quello, capito? La bordatura, no? Si compra la bordatura bianca, si attacca per bene e si rifinisce e poi si fa il piano per rifare. Gianni, ma il piano mobile come quello che c'ho io ci vuoi fare? No, pure che ci sono, e tu che ci possa mettere una farfalicchia, una picca. Ah, coppa coppa, no, il mio è proprio un mobile di sana pianta, solo che io da una cosa ho fatto un'altra, tutto lì, niente, perché non ti piace, non guardarlo adesso perché ancora è così e via dicendo, ma questo qui quando sarà rifinito bene, è messo in vetri, diventa una vetrinetta bella. Ma il fatto che c'è un camarade, non mi posso permettere di fare una cosa greca, capito? La devo fare bella rifinita. Capo, io c'ho un salone, anche se tu mi dirai, ma il salone tuo è così, però quando metto a posto tutte quante cose, che me ne tolgo tutto quanto da mezzo ai piedi, è un bel mobile, non è che sia brutto, poi io li voglio mettere anche i vetri. Capo, adesso ti ha detto che è brutto, ma non ti ha detto che è brutto, però quando ci sono le donne è diverso, che loro sono pignoli, gli piace fare cose ben fatte, capito? È un casino. E anche noi siamo pignoli già, solamente che adesso donne in questo momento non c'è né in circolazione, niente, mi devo arrangiare io, ma il giorno che decido di fare ne vedo roba volare e mettere tutto quanto bene in ordine. Adesso è perché c'ho le macchinette di mio figlio in mezzo ai piedi che le devo piazzare, c'ho questo coso che me lo devo rifinire, una cosa e l'altra, piano piano, poi, quando arriva il momento, sparisce tutto e qui rimane tutto in ordine. Hai un bel acquario, bravo, e non te lo sfrutti. Anche quello vuole fatto, vedi, ho iniziato. È vero, ho iniziato, però adesso devo comprare la farina da 60, costruire il piano, attaccarsi le lampadine e così via, e vuole fare tutto il lavoro. Solamente che le idee io ce le ho, solamente che poi vado alla fine che mi manca il tempo. Infatti, se mia moglie mi avrebbe tolto questo mobile tra mezzo alle scatole, mi avrebbe fatto uno scaffaletto bello. C'è una bella scrivania, mi avrei preso, con il rialzo, tutto, gli apparecchi, tutto qua. Capo, no, io mi la scrivania, l'unica che ho comprato è quella che c'ha mio figlio, per il computer. Poi il tavolo già è grande, e per 10 persone questo qui, a voi da posarsi niente. Ma lì c'è un camarada dentro la stazione, capito? Quindi non è che possa far fare più di tanto. È già troppo che rispetta i miei gusti. Ma in camarada letto non va bene quando sei solo perché non disturbi nessuno, ma quando c'è tua moglie, a casa tu modulando e tua moglie dormendo, a casa ne hai scelti. No, non va bene, capito? Sei stato, diciamo così, isolato, allora sì, e perché io la stazione, perché la sto facendo a me là in soggiorno, proprio per quel motivo lì, perché rimane una vetrina, fa bello, fa arredamento e poi vedi una cosa più carina, capito? Non in camera da letto rubati, è brutto. Camera da letto ti potevi mettere un filo volante così che la mattina pigli, togli tutto e la camera da letto rimane ordinata. Sì, come lo riconosci, ma e che li raccoglio come la mia stazione? Cos'è già? Ho detto che non va bene in camera da letto perché rimane disordinata e cosa, ho detto che li raccoglio come la mia stazione. Io già ne ho ordinato, vabbè, così era. Ma tu ne ho ordinato, non era bella in ordine, non c'era niente. Cavi, nulla, tutto ben ordinato. Però facendo questo. quel lavoro lì viene ancora più bello, perché sotto metti il Galaxy, capito, col microfono a tavolo, e sopra metti gli altri radio, compresa quello lì con l'altro microfono, tutto viene bellissimo, va bene, va benissimo, ma va grande. Ci interessava a noi e lui ci ha detto che le cose che cosa ci interessava potevamo chiamare. all'inizio le mando una mail, vediamo un pochino se ha qualcosa, insomma, che può interessare a noi, a me, vediamo, non avremo accorto che come CB non mi interessa niente, baracchini ne ho anche troppi, tanto non li uso già, vado a usarli una o due giorni, poi quando io comincio a vedere il segnale basso e la radio non è quella che piace a me, allora torno sempre qua. Ma c'è gli apparati che ti rendono? Ah sì, sono tutti 25 watt e più piccolo. Già, io sono megalomane. Se non vedo il lago che picchia sui 100. E non so che è così. Ma so che è così. Se non avessi avuto un problema di occhi, già, è questione di abitudine, capito? Non si vedrà a questa radio e sai che poi non è quello, c'è una differenza di selettività allucinante su tutte quelle che ho preso, capito? Non c'è da fare qua, perché devo usare questa quando posso usare quella lì? E quindi sì, la uso, le uso, anche l'altro giorno stavo facendo lo superstar. Facciamo molto bene, ma però torni sempre a picche, capito? C'ho lì noiti, c'ho il microfono a tavolo, c'ho il microfono normale, o insomma, il campo quello, quell'altro, però torni sempre qua, là. Non so perché, ma Oh, un attimo di danno che vado a comprarmi le sigarette che li ho finiti. Certo. Io c'ho sempre questo pacchetto di scorta, no, in uscita adesso, ho manco guardato in camera. Mario c'era lì la macchinetta, è lì al tabacchino, a 200 metri a casa sua. Io rubo la macchina, farà, figlio, no. Ma comunque a me mi fa benissimo in camera da letto, perché mia moglie si con i cartati, quindi la stanza in camera da letto mi sta molto, molto bene. Mia moglie si mette la mano in terra, la sera, per andare a letto, e in mezzo di giorno. Quando è così già va bene, già. Ma ci sono quelli che si lasciano tutto all'indomani, capito? E quindi io chi ha la bottoviglia, chi ha quello, chi ha quell'altro, quando si blocca, già lui spegne tutto, vabbè, tocca di là. No, io mi sono dovuto per forza fare questo angolo perché avevo rotto le radio in cameretta di l'aria, quindi fino a quando la bambina era piccola problemi non me ne creava. Dormiva in camera da letto con noi, nel suo lettino e ciccia, ma poi quando ha iniziato a soffrire della cameretta mi sono accorto che il problema c'era, tanto è vero che io non entravo più per quello perché non avevo più spazio, capito? Poi mi sono tuffato, ho detto, ma io devo privarmi della mia cosa quando posso naturalmente creare. Consultato mia moglie, ho detto, guarda, quest'angolo per me va benissimo. C'era la maglia a muro, l'ho portato dall'altra parte. E mi ha detto, guarda, se ti va bene, lì devi rimanerci, cioè non devi creare problemi a nessuno. Vabbè, io provo, se mi accorgo che non va bene, ne tolgo tutto e lo metto tutto com'è. Ho provato infatti prima col piano, solo col piano di lavoro, poi già tutte le radio lì. Ho detto, va bene, guarda, ho fatto io, no, lei passava tranquilla. C'era il problema della porta, chiamata Andrea, l'ho fatta girare. E io ho fatto rivedere, guarda, la porta girata, così nessun problema, vabbè, allora posso terminare, sì, puoi terminare. Allora ho iniziato a montare tutte le altre radio, a fare i piani, ho fatto la L e tutto, insomma, ho finito perché è inutile finire se poi non andava bene. Prima ho provato, non mi sono accorto che tutto era ad hoc e ho terminato. fatto l'impianto illuminazione da poco perché avevo tutte queste lampade, lampadine, ma devo usare tutto, boh. Quando accendo, si accendono anche le luci e via. Oh, oh, Cla, fa la cortesia un attimino che mi serve un rapporto, 50-180, scusa un attimo già. 50-180. Quando ci sei dimmelo, perché c'erano dimmelo e dammelo. Io sono più veloce di te, cioè, quando tu stai a parlare sono già lì, io parla. Thank you. tutti si mettono a fare, capito? Ma quello di quella persona che gli ha preso il telefono? Quello lì è. Poveraccio, capito, mi dispiace. Ma io gli ho detto. Ascolta, gli autobus collegati erano. Sì, sì. No, lì ci sono altri problemi, fra, è stato toccato di brutto. Ma io gli ho detto. Gli ho detto. Io lì come lui ha cambiato, che ha messo il microfono normale, poi mi ha inserito il 60, mi sono accorto che lì c'era qualche problema sul circuito, sull'autocontrollo dell'LC. Se quel problema proviene dal PLL, cosa invece che c'è radio? No, ma è tutto il complesso proprio che è stato manomesso. Quello dinamite si con molta calma. Non so dire tanto tempo non aveva cosa fare così. Perché praticamente non c'è differenza, capito, dal 60 normale, no, all'MC43 non c'è differenza, quindi sicuramente gli hanno chiuso qualcosa, la LC, anche perché addirittura mi sono accorto che hanno eliminato lì la parte, hanno eliminato la parte di autovoce per far sì che potessero usare un microfono a tavolo di quelli TAM+3, capito così? Insomma, quando ci sono quei microfoni, ci sono i tre fili e basta, non è che stanno lì a... I tre fili e basta, gli altri non li devi toccare, ma lì è proprio... Lì è proprio algo... È strano. Hai provato a tirare su l'LC, farmelo sentire, fare qualcosa, no? Vuoi fare qualche prova? A parte che l'LC è a posto perché la differenza si sente nella spinta, cioè quello dove lo strumento che si vede. Il discorso è che in banda funziona bene, non c'è problema, in FM la carità di Dio, l'ago è per i cazzi suoi. Perché lì c'è la serratura, fra. Lì hanno creato una serratura allucinante tra il controllo sulle vicine M, sicuramente è andato tutto a farsi fottere quello dell'FM. Lì è fuori serratura. Bisogna fare un bel allineamento, riportarlo come la prima e fare cose fatte bene. Quindi adesso spinge il 60 in AM? Sì, si spinge, lo spinge come questo, però già spinge. Perché lì ce la fa ancora qualche allineamento. Lì ti prendi lo schema, fra con Antonio e lo mettete bene in linea, perché va se ne ha. Sì, sì, ma com'è così a posto? Come uscita anche troppo ne ha. Infatti secondo me lì la grande cazzata che hanno fatto è che hanno spinto a morte. Sicuramente qualche componente mi ha risentito perché si vede, a parte che 10 minuti sta già scaldando come un dannato. Ma stai usando quello lì adesso tu? No, negativo, però adesso l'attacco. Fammelo sentire, voglio vedere la differenza sotto antenna tua rispetto a quella sua, con l'MC60, fammelo sentire. Aspetta. sto mettendo a posto perché. Una radiolina. Una radiolina. Quale? Quello blu che avevo visto, che avete da me? No, molto più grande. Una radio grande valvolare. Ah, no, pensavo quella che avevi detto che dovevi far guardare. Davvero, no, niente là. No, quella non è cosa possiamo fare noi qua, no, ma quella da mandare per guidetti al centro assistenza, far controllare la luce, fare un allineamento, c'è da fare tutte cose d'alta precisione. Franco con tutte le sue capacità, che sono tanti, mancano degli strumenti particolari e non è di quelli che ci mette a cianfugliare. Franco è una persona seria e se ti dice quello è il problema è quello, ma se ti dice no, io non posso farcela, è così. Allora fammi sognare, io fammi sentire sta radio. Adesso appena una attacca vedrai che ti fa sognare. Ah, vero. Break. Ciao Mario. Ciao. Ben entrato, ben sentito. Ma sta prendendo il voce però, Fra. Che tu c'hai questa voce moscia. Sembri figlio del sindaco di Ploie. Che parlava e non si accorgeva, c'era il microfono chiuso. No, se non svegliare tutte cose. Allora, così sono sotto la I. No, mettilo sotto la C. Roger, hola. Prova. Non iniziamo a andare bene. Il processore è attaccato? No, negativo, ancora non l'ho attaccato. Ecco. Allora, così già sta andando bene, benissimo. Però sì, il processore adesso dobbiamo abbassare leggermente, se va bene così. Allora, 1, 2, 3, prova, senza, ecco, così, e c'è il amico. Vedi, già la differenza si sente, quindi c'era già roba chiusa e messa male. Sì, ma l'ha già messo una cotta subito, lo stai mescando. Sbaglio. Stai messando sì, ma quello è il solito tram tram di quel cacchio del radio. Ammazza, dalle un pelino appena scendere e poi mi dai le posizioni del microfono, se sia 50, 500, se sotto è in amplificazione, dimmi qualcosa. Allora aspetta che, vabbè, è sotto che c'ho anche aperto. Aperto. No, il microfono è il mio questo, sto usando il mio, quindi regolazioni del mio. Ah, regolazione del tuo. Ho capito, ma il suo l'hai trovato lì perché il suo praticamente faceva un difetto che non spingeva. Io ho provato sul 440 e però spinge, come mai? Non lo so, adesso provo a attaccare il suo, ora. Provo a vedere. Com'è Mario la modulazione? Buona? Quella è buonissima. Allora, il primo passaggio che ha fatto sotto il processore mi stava arrivando 920, è una radio perfetta verso di me. Il secondo passaggio che ha fatto è salito a 9.40, però c'è aveva il fischio. Poi gli ho detto cosa, però il fischio c'è sempre qui da me, eh. È abbassato leggermente, ma il fischietto c'è sempre. Sì Mario, perché è aperto e quindi tende a avere delle cose strane. Vabbè, una volta che è chiuso poi non c'è problema. Questo è il suo, con le stesse configurazioni del mio. Perfetto, sempre 50 kg L'impedenza microfonica, sì? Sì, sì, uguale identica. Uguale identica. Ma per me va benissimo adesso. Ti dico che è una bella modulazione, sta spingendo, col suo processore inserito, va bene, a prescindere da questo innesco leggero che c'è, ma quello si può vedere dopo, la precipitazione va bene. Mario, cosa ne dici? Quello è perfetto. Niente, io ho sentito un rumorino, però non so se è innesco o se è il coso del microfono, boh. Io ho sentito un rumore e niente, però la modulazione vedo che è bella pulita, bella chiara e bella amplificata. Sì, Roger, adesso l'ho chiuso, però vedi, c'è da fare ancora qualche cosa, ma l'importante è che in AM vada adesso, capito? Quello mi interessava di più, poi mi faccio le regolazioni in FM. Complimenti, la tua per me è più che soddisfacente qua, ma tieni conto che la tua modulazione è molto, molto tranquilla, molto, molto pacata, molto, ma quando lo uso io ho già la modulazione alta di sé, non riesco a parlare a bassa voce, adesso sono a bassa voce, proprio già sento bello largo che picchia a destra e a sinistra, quindi. Per me va benissimo, va più che bene. A quanto gliel'hai messo a metà? Allora, per quanto riguarda la potenza è quasi al massimo, però non lo faccio sollevare di più perché sennò rischia di saturare troppo. E poi ho il pericolo che con l'antenna che ha non riesco a risuonare e quindi sicuramente darà dei problemi. Allora lo lascio all'80%. Sì, ma 80% fa più che sufficiente, e lui ce ne per i pulci. Io ti ascolto a un volume molto basso e non lo attendo, si sente bella chiara, bella amplificata, molto molto presente, sì, ottimo lavoro fra. Non avevo dubbi, infatti io l'ho detto, guarda, l'unica cosa da fare è consultare prima Franco e poi se Franco si accorge che la cosa è fattibile non ha problemi, se non è fattibile salute cosa deve fare. No, va bene Fra, ottimo. Roger, ok, e dopo passiamo, domani passo all'altro stadio. Perché anche lì c'è qualche problema, anzi c'è sicuramente anche lì da fare di riallinearlo di nuovo, perché l'ago in AM addirittura mi sale a 3 senza portante, quindi lì già. Sì, lì già siamo entrati cacciavite e hanno così a occhio fatto le relazioni, quindi sta intermodulando. Va bene, Fra, non ci sono problemi, già sai tu quello che devi fare. Vai Mario. È già pagato. No, io l'ascoltavo benissimo. A parte quando stavo provando che ha di nuovo innescato, però la modulazione è bella tranquilla. E niente. Andrà bene, viene Meda. E sono contento. Cosa si è promosso? Non c'è bisogno di esami, no? Sto scherzando Mario. No, sono delle cose che mi sono messo in testa di fare piano piano, molto, perché sono un ragazzo molto tranquillo. Mi piace fare le cose con calma e bene, quindi sotto non me le metti mai nessuno, quindi. Ma le cose specialmente sulle radio sono lavori di pazienza e di calma, tutto qua avvero. E poi una cosa molto importante, non deve avere nessuno in mezzo alle balle, perché sennò perdi la concentrazione. Doggia. Gappa di gappa. No, Franco, ma Mario, Mario. Io ho avuto modo di frequentarlo per un po' qui quando stavo facendo i lavori e non ce n'è, c'è una calma, una pazienza, mamma mia, allucinante, guarda, avessi avuto la calma sua, ma avrebbero fatto, guarda, o quanto peggio, ma io purtroppo mi stufo subito e non sono venuto a non lo fa. Il primo allineamento è fatto alla grande, perfetto, di luce, ma adesso domani con calma ti fai quello dell'FM e poi dovrebbe essere a posto la radio, perché si sente che spinge bene, bella allineata, bella compatta, non ci sono problemi. Vabbè signori, di 1:20, io domani non devo andare a lavoro, ma devo fare questo, quando andare al medico alle 8, quindi vi lascio, vi saluto, grazie della compagnia, la grande, l'ultimo corsia, ottimo tutto, saluto il secondo più che sono raccolto, se c'è ancora Marco, saluto tutti coloro che sono qua ad affrontare le nostre chiacchiere. Ci sentiamo domani. Il microfono per te Mario, poi ascolto il finale di Franco e me ne va la nanna, K. K, buon RT qua. Sogni d'oro. E buona giornata per domani, quella che ascoltiamo. Vale anche per te, qua. È vero, e ci sentiamo domani ugualmente. Se quello di su ce lo permette sempre. Ciao a tutti, buonanotte. Vai Franco. Roger, sì Mario. Buonanotte, buona giornata per domani. Ci sentiamo alle prossime. Cercando di fare cambi come oggi. Ciao Claudio, buonanotte, buona giornata per domani, ti voglio una stumbata al medico, se rompe le palle, al limite se ti fai un salto ci prendiamo il caffè. Roger, saluto in circolare a tutti, ci sentiamo alle prossime. Ciao Gappa, d'accordo, ce l'ho fatto, appena mi giudico dal medico, ci faccio un salto e ci prendiamo il caffè. Ciao a tutti, buonanotte, bye bye. Ciao.